Sono ancora qui, sono venuto un po' a vedere se ci sono novità, per insistere o chiedere. Sono ancora qui, sono venuto un po' a vedere se ci sono novità, per insistere o chiedere. Sono ancora qui, sono venuto un po' a vedere se ci sono novità, per insistere o chiedere. Quando ti innamorerai di me, baby, gridamelo in faccia. Quando ti innamorerai di me, in modo che mi piaccia. Quando ti innamorerai di me, la mia storia contro il tempo, chissà, forse domani. Qua, qua, qua, quando you are white, so what's the use in fighting?